Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Somigliante alle enciclopedie che ha pressato a quintali. Un uomo che è una brocca ricolma di acqua viva e morta, per cui basta inclinarla un poco e da lui escono pensieri. Un uomo istruito contro la sua volontà, per cui non sa quali pensieri siano i suoi, quali provengano dalla sua mente e quali dalle sue letture. Ottavio Tondi, Memorie delle cose lette prima di dire m'addormento, appunto numero 244. L'orgoglio di leggere. Così titolava l'intervista a Ottavio Tondi, riprendendo in forma sintetica una delle sue dichiarazioni: non sono tanto orgoglioso dei libri che ho letto, ma di quelli che non ho scritto. Il giornalista mancò di evidenziare l'ovvia allusione a Borges, forse nel timore che il pezzo contenesse troppi rimandi colti, si trattava pur sempre di un quotidiano di grande diffusione, o forse, cosa assai meno probabile, perché gli sfuggì del tutto. A ogni modo, la notorietà inaspettata che Tondi conobbe dopo l'intervista partì proprio da lì, da quella battuta che sembrava sferzare un paese dove nessuno leggeva, benché fosse da tutti avere un romanzo nel cassetto. Prima di allora, Tondi era un perfetto sconosciuto anche per il mondo editoriale, cerchia di incestuosa angustia dove il non conoscersi tra detti ai lavori era fantascienza. La sorpresa fu generale. Ci si chiese come mai il presente avesse dedicato tanto spazio a un perfetto signor nessuno, il cui unico segno distintivo era quello di esercitare un mestiere oscuro. Leggere manoscritti, seppure per un editore di massimo riguardo, famoso per il bianco delle sue copertine, era forse ragione sufficiente per scomodare una firma tra le più prestigiose del maggiore quotidiano nazionale? Un giornalista noto per intervistare soltanto i grandi vecchi della cultura. Non di meno di questo si trattava. All'epoca Tondi non era che uno studente fuori corso, un 27enne che invece di dare esami di economia e commercio leggeva manoscritti per conto dell'editore più ambito dagli autori italiani, aspiranti e non. Un dilettante alle prime armi e tuttavia capace di pescare tra le tante storie inutili e mal scritte che ogni giorno arrivavano in casa editrice una gallina dalle uova d'oro. Lesse La Vergine, comprendendone all'istante le potenzialità. Oggi che il romanzo di Gloria Stupenda è ricordato come il più grande caso letterario dai tempi del Gattopardo, il merito può apparire fortuito, ma come spesso accadeva coi libri, non ci fu niente di scontato. Il romanzo partì malissimo. Le recensioni furono poche, per lo più fredde, per non dire glaciali. Le vendite non andavano meglio. Ci si era già rassegnati al ciclo vitale della maggioranza dei titoli. Qualche settimana in libreria, un annetto a prendere polvere in un magazzino, infine il macero o, per le copie più fortunate, l'accanimento terapeutico dei reminder. Quando, inaspettato, grazie al circolo misterioso del passaparola, il botto. La Vergine cominciò a muoversi. Dapprima vendicchiò quel tanto che serve a restare in libreria. Quindi esplose. Si impossessò dei primi posti delle classifiche e da lì non si mosse più, fin tanto che ci furono luoghi in cui trovare libri e persone che non si vergognassero di leggere. Malgrado lo straordinario successo, anzi proprio per via di esso, dovette passare altro tempo perché il romanzo facesse breccia anche tra i letterati. Ricordo l'indifferenza falsa e livida con la quale molti miei colleghi rifiutavano di parlarne. Gli altri o tentavano di sminuire il fenomeno o ne parlavano decisamente male. Andrea Cortellessa lo bollò come il romanzo più inutile che avesse mai letto. Giuseppe Genna, con una delle sue proverbiali iperboli, si ingegnò per contraddire Cortellessa, esprimendo comunque un giudizio altrettanto tranciante, il più imprescindibile tra i romanzi che non leggerò mai. La fama controversa che il libro conobbe in quel periodo mi toccò personalmente, creandomi non pochi problemi. Teresa Ciabatti, un'amica incline allo scherzo, scrittrice anche lei, sparse la voce che il vero autore ero io. Lo fece all'inizio. La Vergine ancora languiva, ignorato nelle librerie, e pertanto accettai di stare al gioco. In effetti ero infastidito, ma pensavo che non ne sarebbe venuto alcun danno, e così, a chi mi chiedeva se ci fossi davvero io dietro quel nome che pareva inventato, davo risposte elusive o smentite vaghe, per nulla decise, alimentando di fatto l'ipotesi alla quale peraltro nessuno dava chissà quale importanza. Una volta esplosa la tempesta perfetta, tutti vollero sapere di questo deserto dei tartari dei sensi, come fu definito, e dell'autrice o autore che aveva raccontato la storia di una donna che lascia sfiorire la propria bellezza nella valle dei Calanchi senza conoscere le gioie della carne, in attesa di concedersi all'uomo giusto, e mentre passano gli anni, lo sperduto paese morente in cui lei è nata e dove è sempre stata la più corteggiata e desiderata si svuota, lasciandola con un numero sempre minore di pretendenti, condannandola ad avvizzire di solitudine e rimpianti in un ammasso di case fantasma unite al resto del mondo unicamente da un ponte lungo e strettissimo che nessuno percorre più, e raggrumate su un cuneo di tufo dalle pareti corrose, prigioniere di uno sgretolamento crudele. Qualcuno si ricordò dell'invenzione di Teresa Ciabatti. La mia vita divenne un inferno. Ogni giorno mi si chiedeva di ammettere, di smettere la maschera, e più veementemente negavo, più quella convinzione si radicava. Per tutti ero ormai gloria stupenda. Avrei anche potuto accettare quella popolarità immeritata e che mai avevo conquistato coi miei libri. Non mi fosse stato impedito di seguitare a essere lo scrittore marginale che ero. Nessun editore era più interessato a pubblicarmi, a meno che non tornassi a firmarmi con lo pseudonimo di Gloria Stupenda, cosa che ovviamente non potevo fare. Lo stesso accadeva coi giornali e periodici ai quali offrivo i miei articoli. Non mi fu più concesso di usare il mio nome, nemmeno nell'attività di traduttore, che per quanto esigua costituiva una fonte di sostentamento per me irrinunciabile. Disperato, implorai il direttore editoriale della Bianca. «Trova una soluzione», gli dissi. «Cosa vuoi che faccia? Non posso mica obbligare la gente a smettere di credere in una balla», replicò lui in un primo momento, sottintendendo che in fin dei conti, in quel pasticcio, mi ci ero cacciato da solo. Fortunatamente per me e per Ottavio Tondi, di lì a poco il direttore editoriale in questione ebbe un colpo di genio. Chiamò il presente, illustrò la mia situazione. La risposta del giornale fu simile a quella che il direttore editoriale aveva già dato a me. Avrei dovuto pensarci prima, all'inizio, quando di Gloria Stupenda non importava nessuno. Quella storia si era ingigantita troppo perché adesso si potesse sperare di arginarla con una smentita qualunque. «L'opinione pubblica è come un bambino», dissero, «non puoi togliergli un giocattolo senza promettere un trastullo migliore». Il sottotesto era ovvio: «Dacci la vera Stupenda». «Non posso», disse il direttore editoriale, «non ho nessuna Gloria Stupenda da darvi, ho soltanto il suo libro». «Qualcuno l'avrà pur scritto», insisterono. «Dacci lui o lei, se è davvero una lei». Il direttore editoriale spiegò allora che la nota posta dopo il frontespizio della Vergine, nella pagina del copyright, non era una trovata. Il manoscritto era rimasto per più di 15 anni a prendere polvere assieme a centinaia di altri plichi spediti da aspiranti scrittori. Sulla busta non era indicato un mittente. E la lettera di accompagnamento che probabilmente si trovava all'interno era andata smarrita. Lo avevano pubblicato senza un contratto, senza sapere chi fosse Gloria Stupenda, limitandosi alla dichiarazione che si usava in frangenti di questo tipo. Esperite tutte le pratiche per l'acquisizione dei diritti del presente romanzo, l'editore resta comunque a disposizione di quanti avessero a vantare ragioni in proposito. D'altra parte, nessuno si aspettava granché, men che mai un esito di tali proporzioni. Anzi, per dirla tutta, erano state avanzate parecchie riserve in casa editrice. Una storia così cupa e povera di eventi, raccontata per giunta con stile ossessivo. Ne avevano pubblicati a caterve di romanzi così, sempre con lo stesso risultato, un buco nell'acqua. Dunque, perché impelagarsi in un'impresa che pareva offrire ben poco, a parte il rischio di uno strascico legale? Già, perché? Chiesero dal giornale. Il direttore editoriale non aveva una risposta razionale. A un tratto si era deciso, semplicemente. Qualcosa dentro di lui gli aveva detto con insistenza che doveva pubblicarlo. Qualcosa dentro di te? Si è trattato di fiuto allora? Solo di questo? Quando è così, dissero, non se ne fa niente. Bella storia, per carità, contenti per te, ma troppo poco per un giornale. Un editor con un buon fiuto. Il pubblico vuole qualcosa di più di una persona che sa fare il proprio mestiere. Vuole roba forte, concreta, non astratta come l'intuito. Vuole personaggi? Beh, un personaggio ci sarebbe, in effetti. Fu in quel momento che arrivò il colpo di genio. Non ho gloria stupenda, ma posso darvi qualcosa di meglio, disse al giornale. Di meglio? E cosa ci sarebbe di meglio dello scrittore del secolo? Il lettore. Il lettore. Al giornale si domandarono se il direttore editoriale si fosse bevuto il cervello o stesse cercando di vendere fumo, come spesso aveva fatto in passato. Ma sì, provate a seguirmi per un istante. I riflettori sono sempre stati puntati sugli scrittori. È di loro che si parla nelle pagine culturali. Sono loro a essere intervistati e a loro che si chiedono pareri su qualunque cosa, malgrado non sappiano nemmeno perché scrivano le cose che scrivono. Voi direte, e giustamente, che è normale. Perché mai, direte, dovrebbe essere altrimenti, visto che sono loro a salire sul palco e a dar vita allo spettacolo. Il pubblico non va a teatro per vedere un palco vuoto, ma io vi dico che perfino un palco vuoto basta per fare spettacolo, se il teatro è pieno. Anzi, se c'è qualcuno, anche uno spettatore soltanto. Se però nessuno dei posti in platea è occupato, non importa cosa allestisci, non ci sarà comunque lo spettacolo. Ci stai proponendo un sofisma? Il pubblico sono ombre nel buio. Illuminalo e quelle ombre diventeranno persone. Non è detto. Un'eccezione può sempre darsi. Magari l'ombra diventa un personaggio. E proprio questo è il caso. Spiegò quindi che era stato proprio questo lettore, questo ragazzo, a rendersi conto delle potenzialità del manoscritto, a insistere perché venisse pubblicato. Ma non era stata una voce dentro di te a insistere? Ha insistito anche lei, sì, ma non sul libro. Sul romanzo non avrebbe potuto dir nulla, visto che non l'avevo letto. Dal giornale non commentarono. Si udì tuttavia una specie di verso, qualcosa di vicino a un sogghigno. Quel direttore editoriale andava famoso per essere un grande comunicatore. Nessuno sapeva far parlare di libri come lui. Sussistevano però seri dubbi sul fatto che li avesse letti prima di pubblicarli. Lui stesso era ambiguo sull'argomento. Diceva, scherzando o forse no, che non poteva leggerli. Se l'avesse fatto, non avrebbe potuto lanciarli con equanimità, con identico entusiasmo. Leggerli l'avrebbe condizionato, perché fatalmente uno gli sarebbe piaciuto meno di un altro, mentre lui voleva dare a ogni titolo la sua chance. La voce ha insistito affinché prestassi ascolto al ragazzo, proseguì il direttore editoriale. Come io, ora insisto con voi perché lo incontriate. Soltanto questo vi chiedo, un incontro. Cosa avete da perdere? Se il ragazzo non vale un pezzo, avrete buttato un paio d'ore. Ma io vi dico che non sarà tempo sprecato. Mi ringrazierete, ve lo garantisco. Naturalmente, è improbabile che la conversazione si sia svolta proprio in questi termini, con questi toni. Anzi, avendo conosciuto tanto il direttore editoriale in questione che le redazioni di quel genere di quotidiano, mi sento di escluderlo in termini assoluti. Ancora più irrealistico è che il direttore editoriale credesse davvero a quanto diceva. Sempre perché l'ho conosciuto bene, tendo a pensare che abbia improvvisato, giocando d'azzardo, come del resto era sua abitudine quando lanciava un libro. Non dico che fosse privo di considerazione per Ottavio Tondi, questo no. Per certo gli era simpatico e ne ascoltava con interesse le opinioni. Non di meno lo vedeva né più né meno come gli appariva. Nulla più che un lettore straordinariamente vorace al quale aveva passato montagne di manoscritti che in casa editrice nessuno avrebbe mai avuto il tempo o la voglia di aprire. Lo offerse in pasto alla stampa, solo come diversivo, per distogliere l'attenzione da me, scopo che gli stava a cuore, non tanto per farmi un favore, ma perché temeva che alla lunga il mio accostamento al nome di Gloria Stupenda potesse inquinare l'immagine del suo bestseller, il cui pubblico, per lo più femminile, preferiva pensare che La Vergine fosse un romanzo autobiografico e reclamava pertanto un autore donna. C'era poi l'aspetto ludico, l'azzardo appunto, il piacere di imbastire un fenomeno dal nulla, lanciare una provocazione per osservarne gli effetti. Infine, sebbene non lo dicesse apertamente come molti suoi colleghi, questo direttore editoriale riteneva che molti scrittori non fossero altro che sue invenzioni e dovessero a lui la fama, l'apprezzamento della critica e forse perfino il loro stesso talento, sempre che ne avessero. Il fatto che gli scrittori scrivessero gli negava tuttavia la soddisfazione di arrogarsi tutti i meriti. Naturalmente non ho prove per affermarlo, ma nessuno mi toglierà dalla testa che all'origine del colpo di genio ci fosse proprio il bisogno di dimostrare che in fondo l'autore era superfluo, un'occasione, uno strumento come un altro del quale si sarebbe potuto fare tranquillamente a meno. Era lui il vero artefice. E trasformando in celebrità un semplice lettore, una nullità qualunque che non produceva alcunché di suo, la cosa sarebbe parsa evidente a tutti in termini inoppugnabili. Le considerazioni che fecero al giornale non dovettero essere molto diverse. Tra gli uffici stampa delle case editrici e le redazioni delle pagine culturali era in corso una partita di scacchi infinita. I primi tentavano costantemente di manipolare i secondi nella convinzione che questi fossero, in sostanza, degli incompetenti ai quali era possibile vendere per buona ogni fandonia. I secondi, forse anche incompetenti, ma per nulla sprovveduti, erano del tutto consapevoli con quale spirito venivano contattati dai primi e tuttavia fingevano di cascarci perché pure loro avevano una convinzione. Vale a dire che in quella partita il vero manipolatore fosse proprio il manipolato. E come dargli torto? Il giornalismo è una forma di racconto come tante altre, si ispira alla vita, ma vive di invenzione. Ciò che voglio ipotizzare è che al giornale intravidero possibilità alle quali neppure il direttore editoriale credeva. Il gusto perverso quanto irresistibile di creare un caso dal nulla, una notizia da un'assoluta mancanza di eventi. Sono passati tanti di quegli anni da allora che nessuno potrà oggi smentirmi. D'altra parte, che importa ormai? Ai fini di questa storia, soltanto una cosa conta. Trascorsa una settimana da quella proposta all'apparenza insensata, un giornalista del presente chiamò il direttore editoriale e disse: «E sia, dammi il telefono di questo lettore straordinario». Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio.